Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Questo è il primo incontro di una serie che abbiamo chiamato Scritture in Movimento, Scritture senza Movimento, ed è nato, il nome è nato dalla rilettura di questo librino di Bifo, che è un librino di, la riedizione è di un anno fa, e in realtà la stesura è di mezzo secolo fa, e ovviamente in mezzo secolo le cose sono cambiate, molto cambiate, però il libro di Bifo è molto stimolante e ci è sembrato significativo recuperare il titolo e metterlo anche in forma di domanda su scritture senza movimento o senza movimenti, proprio perché per la mancanza di movimenti negli ultimi anni, o comunque di movimenti molto non così estesi. Ricordo che fra l'altro quando proposi la recensione di questo libro a Valerio Evangelisti esattamente un anno fa, e mi disse subito di sì, scrissi la recensione e assieme al libro di Bifo recensì anche questo libro della collana Fulmicotone di Agenzia X, di Twig, Nitrito, proprio perché a me sembrava che questo racconto di Twig contenesse un po' una continuazione di quel ragionamento su scrittura e movimento. E fra l'altro con Roberto e gli altri compagni di Conchetta abbiamo piano piano stiamo facendo un'indagine su questo rapporto, e a noi sembra che ci siano delle case editrici piccole, interessanti, anche di movimento, che negli ultimi anni hanno iniziato a pubblicare della letteratura di opposizione interessante. Sabato scorso, per esempio, c'era qui con noi Marco Bova, che ha pubblicato Per Eris, una casa editrice di torinese, Il nemico non ha pietà, che è questo. Ma di esempi ce ne sono parecchi, insomma. Un'altra casa editrice piemontese, che è Tabor, ha pubblicato questo La valle degli eretici, che mi sembra anche molto significativo, oppure una casa editrice napoletana, Magmata, e ha pubblicato questo romanzo proprio negli ultimi mesi, di Gennaro Ascione, di cui adesso non ricordo il titolo. Non vedo qui Roberto che mi dà una mano, vabbè. E per cui c'è qualcosa che si muove, ecco. Con Valerio Evangelisti, per venire invece all'appuntamento di stasera, questa iniziativa era nata in maniera del tutto diversa, perché prima del Covid, assieme a Valerio Evangelisti, avevamo pensato di fare qualcosa dedicata a lui, a partire dalla sua ricerca. E poi, insomma, le cose sono andate come sono andate, il Covid e poi la sua scomparsa. Però è rimasta questa necessità, insomma, e ci è sembrato che l'occasione della pubblicazione del libro di Alberto Prunetti e questa raccolta di scritti di Valerio Evangelisti curata da Alberto Sebastiani fosse, insomma, un buon inizio per ridiscutere certi temi. Su Valerio Evangelisti in questi mesi sono state dedicate molte iniziative alla sua scrittura, insomma, al suo impegno militante, e a noi questa sua dimensione di letteratura di opposizione, ma anche di impegno politico, è quella che insomma, è una delle sue caratteristiche che apprezzavamo del suo percorso. E poi quando muore uno scrittore, ci sono sempre i vedovi o le vedove che cercano di tirarlo per la sua utilizzare quello che ha scritto o quello che non ha scritto. Dico questo perché 3 giorni fa è uscita una mia recensione sul Manifesto al libro, alla raccolta di Evangelisti. E ieri su Facebook Iuri Colombo ha criticato, c'era Mario Gamba, un musicologo molto bravo, che aveva pubblicato il link dell'articolo uscito sul Manifesto, e Iuri Colombo ha eliminato la discussione che c'era sotto sulla scrittura di Evangelisti con un vabbè, era un difensore delle repubblichette del Donbass e questo è tutto. Ora, un commento così stupido, mi dispiace per Iuri Colombo, che è venuto anche qui a presentare i suoi libri e che comunque ci regala degli spunti critici sulla situazione dell'Ucraina e della Russia interessanti. Però, ecco, un commento così poteva evitarlo, perché insomma non è che si può cancellare una vita ricca di immaginazione, di creatività, di impegno con una frasetta misera di questo tipo. E quindi niente, questo per dire che ci interessava tenere assieme ricerca del linguaggio, trasformazione del linguaggio, trasformazione sociale, e cose che appunto nel periodo in cui Bifo ha scritto il suo libello erano forse più semplici, adesso è tutto molto più complicato. E il libro di Prunetti e poi anche l'intervento di Samuela Serri di Redacta proprio ci faranno capire anche perché l'oggi è molto più problematico di 50 anni fa per quello che riguarda lo sfruttamento, la scrittura, il lavoro intellettuale, eccetera. E invece partirei, direi che se siete d'accordo, se sei d'accordo anche tu, Alberto Prunetti, di far partire Alberto Sebastiani, che ha curato l'antologia di Evangelisti, ma un anno fa, uno, due, tre, quanti anni fa, hai pubblicato il libro dedicato a Valerio. Ecco, il miglior libro che potete trovare sulle scritture di Valerio Evangelisti è stato scritto da Alberto, e quindi l'introduzione alla raccolta di saggi che ha scritto Alberto è anche molto puntuale, e quindi lascerei la parola a lui sia per parlare di questa raccolta che un po' delle scritture di Valerio. Così sente anche Alberto. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui. E grazie a Conchetta, Libreria Calusca, di avermi chiamato, grazie a Mark per questo invito, mi fa molto piacere essere in archivio Primo Moroni, quindi è una cosa che fa molto molto piacere. Allora, io sono Alberto Sebastiani, vengo da Bologna e da molti anni mi occupo dell'opera di Valerio Evangelisti. Ora, io non so quanti di voi conoscano Valerio Evangelisti, è uno scrittore, prima di tutto, che ha esordito nel 1994 per Urania con il primo volume del ciclo, della serie che lo ha reso famoso internazionalmente, che è quello dell'Inquisitore Emmerich. E l'Inquisitore Emmerich, che è un personaggio realmente esistito, che lui rielabora all'interno di questi romanzi, che però sono di fantascienza. Nel senso che questi romanzi sono divisi in più parti. Sono di solito tripartiti, poi delle variabili, per cui c'è il XIV secolo, che è quello delle avventure storiche di questo Emmerich che viene reinventato, un inquisitore che è un essere orribile, è l'archetipo del proprio del totalitarismo, e poi c'è il periodo, diciamo, secondo livello temporale, che è quello del nostro presente o presente alternativo, e poi c'è il futuro. Ecco, tutto questo è costruito in maniera tale che ciò che imposta Emmerich come repressione, come imposizione di un volere, eliminazione di qualsiasi forma di opposizione o di contestazione, sia poi proiettato man mano nel futuro con dinamiche analoghe nei livelli vari che compongono quindi questo ciclo. Questo ciclo che diventa l'alfa e l'omega, perché si muove dal XIV al XXXII secolo, di tutta l'opera di Valerio Evangelisti. Perché Valerio Evangelisti ha scritto praticamente molti romanzi, diversi cicli, e tutti questi cicli sono interconnessi tra di loro. Perché se noi partiamo appunto dal XIII secolo, il XIV secolo, il 1300 con Emmerich, poi abbiamo il XV secolo che sviluppa sempre all'interno di Emmerich con un mondo parallelo di Giovanna d'Arco, poi man mano arriviamo al XVII-XVIII secolo con i pirati dei Caraibi, fanno la trilogia dei pirati, pirati dei Caraibi, poi procede, c'è altri cicli di romanzi che riguardano ad esempio le rivoluzioni messicane, poi ci sono dei romanzi che riguardano l'avvento della rivoluzione industriale nell'America, negli Stati Uniti, il ciclo del metallo, ma c'è anche il ciclo americano con le repressioni dei sindacalisti negli Stati Uniti. Poi andiamo avanti, perché torniamo dalle nostre parti. A dire il vero, il XV secolo aveva anche un altro personaggio che era appunto Nostradamus, a cui è dedicato il ciclo Magus. E poi c'è il ciclo dei romanzi che stava scrivendo sul Risorgimento, cioè due li aveva già scritti, il terzo lo stava facendo. E poi il ciclo del Sol dell'Avvenire, Sole dell'Avvenire, sulle rivolte, il ciclo del romanzo risorgimentale, un controrisorgimento fatto dal popolo in Italia. E poi c'era il ciclo del Sole dell'Avvenire sulle lotte dei braccianti romagnoli dall'Ottocento alla Resistenza. Ecco, cosa c'entrano l'uno con l'altro questi cicli, questi romanzi che sembrano così diversi? Beh, intanto c'entrano l'uno con l'altro sia storicamente, sia tematicamente, sia come stile, scrittura e ricerca letteraria, nel senso che in tutti questi romanzi Valerio continua a contaminare i generi, e questo la paraletteratura, di cui poi parleremo più in dettaglio. Tematicamente perché tutte queste storie raccontano continuamente, con rimandi interni da un ciclo all'altro, la lotta contro chi reprime le canaglie, vale a dire coloro che si oppongono a determinate situazioni, solo che a volte la racconta dalla parte dell'oppressore, come fa con Emmerich, altra volta dalla parte delle canaglie che si ribellano, e sono quelle ad esempio del caso del Sole dell'Avvenire, per intenderci, o dei marziniani o degli primi socialisti, dei primi anarchici che si iniziano a muovere tra Risorgimento e Sole dell'Avvenire, che sono legati proprio anche come personaggi. Ecco, siamo all'interno, poi dicevo, da un punto di vista stilistico, quindi la contaminazione tra i generi, dal punto di vista tematico, la continuazione di questo sviluppo di questa questione, dicevo, il fatto che sono tutti intrecciati. Sono intrecciati sia come rimande, che dicevo, ma anche perché continuano a sviluppare un discorso ben preciso, unendo quei due punti che dicevo prima. Cioè, racconta storie da letteratura popolare, cercando di raggiungere un obiettivo ben preciso. Allora, è quello dell'immaginario. Chiariamo la cosa. I suoi saggi, lui nasce come storico, era uno storico, e lui la ricerca storica la fa, ha pubblicato degli studi sulla nascita del Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna, sui Giacobini Bolognesi del Settecento, sugli scioperi dei braccianti romagnoli, come il Galletto Rosso, e a imbrociare i campi quando erano maturi. E poi ha fatto anche degli studi di storia simultanea, che è quelle sul punk, sui snap movie, che uno storico occasionale, diciamo così, no, sto scherzando, era Hobsbawm, Eric Hobsbawm, ha lodato come dei saggi veramente di grande interesse. Erano saggi degli anni Ottanta. Questi saggi sono tutto la ricerca che sempre fa Evangelisti per poi costruire i suoi romanzi. I suoi romanzi che quindi sono delle avventure in cui lui racconta, riprendendo fatti storici, rielaborandoli, costruendo appunto quel discorso tematico che dicevo. Perché scegliere la letteratura di genere? Perché sto parlando a western, romanzi d'avventura con i pirati, romanzo storico, fantascienza. Se andiamo nel sole dell'avvenire, usa dentro la commedia degli equivoci, usa dentro storie da melodramma, da romanzo popolare, eccetera. Perché fa tutto questo? Perché dicevo, per raggiungere l'obiettivo che è l'immaginario. Dell'immaginario lui parla spesso in quelli che sono quelli che chiama saggetti. I saggetti sono i suoi articoli, prefazioni, postfazioni, sono tantissime. Valerio Evangelisti non solo ha scritto tanto in questi anni di carriera letteraria, questi 30 anni quasi di carriera letteraria, ma ha scritto da molto prima appunto saggi storici e interventi politici. Per Valerio Evangelisti la letteratura era un fatto politico. Chiariamo questo subito, è un atto politico e in questa componente c'era tutta anche la sua militanza politica, la sua formazione, perché lui nasce veramente con scelta entrando in lotta continua negli anni 70, poi dopo entrerà nell'autonomia, poi dopo ha sempre militato, sempre fatto attività politica, negli ultimi anni era nel direttivo di Potere al Popolo. Ora il suo lavoro politico è stato sempre accompagnato da studio, da ricerca, da intervento come pubblicistico e saggistico e da scritti letterari, perché quello che sto continuando a dire è che da un lato c'è una ricerca, dall'altro la letteratura, ma della stessa medaglia. L'uno non può fare meno dell'altro. Lui racconta le sue storie sviluppando narrativamente i suoi studi, la sua lettura critica del mondo, perché e lo fa attraverso la paraletteratura, la letteratura popolare, la letteratura di genere. Perché? Perché quella ancora, e ripeto per la terza volta la parola, è quella che incide maggiormente nell'immaginario. E adesso vengo a spiegare questa questione, ovvero questo libro di cui ho parlato, Le strade di Alphaville, raccoglie una selezione di saggi, che sono tantissimi, dei saggetti di Evangelisti. È successo che l'anno scorso, l'anno scorso, mi aveva chiamato l'editore perché voleva, visto che voleva ripubblicare dei saggi di Valerio Evangelisti. Succede che in Valerio tra il 2000 e il 2006 aveva pubblicato 3 volumi di saggi. Alla periferia di Alphaville, l'inchiesta sulla paraletteratura, sotto gli occhi di tutti, e Distruggere Alphaville. Erano 3 libri pubblicati per l'Ancora del Mediterraneo in cui raccoglieva dei suoi interventi, postfazioni, eccetera, nel primo volume maggiormente sulla paraletteratura, e poi vedremo di chiarire. Nel secondo era un po' più composito, il terzo era abbastanza uno zibaldone di interventi vari. E c'era quando mi hanno detto vorremmo ripubblicarli, ho parlato con Valerio Evangelisti, ho detto Valerio va bene ripubblicarli, ma non ha senso ripubblicare tutti insieme. Cioè c'erano anche saggi estremamente estemporanei, cioè c'erano dei pamphlet satirici su non so chi lo ricorda, sugli interventi di Magdi Allam su Saddam Hussein. Se ve lo ricordate, magari anche no, sarebbe bello. Però oppure c'erano degli interventi di critica sulle fake news che arrivavano dalla guerra in Afghanistan, ok? O in Iraq, sulle fake news che erano state utilizzate per la guerra dei Balcani, dell'ex Jugoslavia. Quindi c'erano anche questioni che venivano toccate sull'attualità direttamente, non solo sulla letteratura. Cosa ho fatto con Valerio? Ho detto Valerio, vediamo di costruire un percorso tra i saggi sulla paraletteratura. Lasciamo perdere quelli che leggono direttamente l'attualità, sugli interventi estemporanei, spesso satirici, eccetera. Selezioniamo quelli sulla paraletteratura. Perché? Perché lì c'è veramente il discorso di raccordo tra la sua militanza politica, la sua ricerca, i suoi studi, la sua attività pubblicistica e la sua ricerca letteraria. La paraletteratura sapete che è un termine spregiativo, no? nel senso in sé non sarebbe spregiativo, però viene utilizzata per indicare tutti i generi, dal giallo al noir, alla fantascienza, il western e tutti quelle produzioni letterarie considerate di consumo, di serie B, di intrattenimento. Valerio, oltre ad essere un lettore appassionato di fantascienza e di letteratura popolare, non era ovviamente d'accordo con questa lettura. Perché? Perché grazie alla paraletteratura, quando è fatta bene, affronta temi elevatissimi, dei macrotemi, come testorava lui. Perché? Perché permette di leggere l'attualità, permette di proiettare situazioni che sono nell'attualità, uscire dalla dimensione ombelicale personale per entrare in una dimensione sociale collettiva. E c'erano saggi molto belli, ad esempio, che faceva su Lupin o su Fantomas, parlando degli anarchici insurrezionalisti, del tempo in cui nascono certi libri. E dimostrava la relazione tra un modo di percepire la realtà, un modo di raccontarla, e ciò che avveniva nella realtà. Ecco, in questi saggi lui parte utilizzando, spiegando perché adotta il termine paraletteratura, e lo fa nella più classica delle dinamiche dei movimenti, no? C'è una parola che mi insulta, bene, la prendo e la uso contro, no? È la cosa più classica che c'è dalla notte dei tempi, il rovesciamento dell'insulto. Sì, faccio paraletteratura. Questa paraletteratura mi serve per arrivare a colpire il lettore. Colpire il lettore vuol dire portarlo dentro una storia, vuol dire coinvolgerlo, e in questa storia ben detto che deve affrontare macrotemi. Lo fa però non parlando magari direttamente, ma costruendo una storia che deve muovere degli archetipi. Questi archetipi sono fondamentali per costruire l'immaginario. Cos'è l'immaginario? Non è qualcosa di astratto, vago, come effettivamente è anche, ma è qualcosa per Valerio Evangelisti di strutturale. Cioè, chi orienta l'immaginario, e da Eimerich in poi tutti cercano di farlo, chi orienta l'immaginario può orientare la percezione del mondo. Non è la teoria epidurale della comunicazione, per cui se tutti dicono guarda questo tavolo è verde, allora tutti pensiamo che questo tavolo è verde. Non funziona così. Ok? Però sicuramente può orientare il controllo della comunicazione, quindi dell'immaginario che permette di controllare la comunicazione, può orientare, e l'ha fatto pesantemente in tante occasioni e lo fa pesantemente tuttora, il modo di vedere il mondo e leggere il mondo, rispetto al quale c'è un grosso problema, che negli anni in cui Valerio Evangelisti inizia a scrivere sono gli anni post-acceriani, post-reganiani, che abbiamo imparato a essere quelli del there is no alternative, non c'è alternativa, che con la favolina della morte delle ideologie si è semplicemente imposto un'ideologia unica, quella liberista. Questa ideologia unica, liberista, monolitica, ha fatto sì che non sia più possibile immaginare alternative. E allora capite che da questa parola immaginare c'è il discorso dell'immaginario. Solo se io inizio a costruire alternative che facciano pensare la possibilità dell'esistenza di alternative, e inizio a denunciare l'assenza di alternative, e lo faccio con delle storie che fanno riflettere, che piacciono, che coinvolgono e che fanno riflettere, allora posso costruire un'idea di alternativa e di movimento, di opposizione, una scrittura di opposizione, quindi. E per concludere, arrivare a conclusione e dare anche il passaggio sia ad Alberto, se c'è ancora, non lo so, non ho capito, sia a Redacta, il discorso diventa che se Valerio Evangelisti ha cercato di, l'ho evocato praticamente, se c'è stato no, non era Alberto, se non avrei risposto, dicevo se il no, dicevo, se Valerio Evangelisti cerca appunto di costruire questa alternativa attraverso la narrazione, lo fa in una maniera però che non è così facile per il lettore. Dicevo prima di Eimerich, no? Eimerich è un essere osceno, orrendo, è il peggiore di tutto, combatte le eresie, che è una forma di difformità, no? Di diversità, di alternativa. Estermina, è un inquisitore che veramente, cioè una delle prime avventure di Eymerich, c'è un villaggio in cui c'è stato episodi di eresia e tanti sono caduti dentro l'eresia anche senza rendersene conto. Lui, per non sbagliare, per estirpare alla radice il problema, coinvolge tutti in una festa, in un rogo che deve coinvolgere solo alcune persone di giustizia e uccide tutti, fa uccidere tutti. Però lui l'ha fatto il braccio secolare. Noi inquisitori abbiamo solo il dovere di indicare dove è il male, ok? Allora, quindi il lettore si identifica, questo qua per dire la scrittura di evangelisti, il lettore cosa fa? Si identifica in questo personaggio diventa quello per cui il lettore tifa. Come fa? Perché succede questo? Perché evangelista è bravissimo a scrivere. E cosa fa? Inserisce, racconta le storie d'avventura con Eymerich come protagonista e Eymerich è sempre in scena e lui con la sua scrittura entra e esce dalla testa di Eymerich, per cui noi di fatto vediamo tutta l'avventura dagli occhi di Eymerich e siamo coinvolti in un romanzo d'avventura, quindi c'è l'identificazione fino al momento finale in cui dice un attimo, cioè ce l'abbiamo fatta nel senso che ho sterminato un villaggio? E questo è il cortocircuito che Valerio Evangelisti voleva, ad esempio, creare con questo, ma anche con altri personaggi. Perché se Eymerich, appunto, è l'Inquisizione, e poi viene il, dicevamo, Magus, il conflitto tra il passaggio del paradigma tra natura e scienza. Se arriviamo nel 600, 700, che i pirati cosa sono? L'individualismo più sfrenato. Sono gli archetipi del liberismo. Che vanno e c'è tutta la storia dei pirati, dei fratelli della costa, che al servizio di Francia o Inghilterra, a seconda dei momenti, come corsari, iniziano a sviluppare l'idea di crearsi un posto loro in cui possano commerciare e gestire un monopolio dei commerci. Dopodiché abbiamo le Pantera, il western, che viene raccontato attraverso l'invasione del Messico, e quindi la rivoluzione messicana, o che va a raccontare come la violenza dell'America delle origini, e poi va il ciclo americano, in cui c'è tutta l'esplosione industriale degli Stati Uniti e man mano i lavoratori che si organizzano e vengono massacrati, con infiltrati all'interno dei sindacati, eccetera. Fino ad arrivare a quelle storie risorgimentali che abbiamo detto prima, di tradimento del popolo e comunque della lotta che continua ad esserci del popolo, prima con i popolani, sotto proletariato, eccetera, risorgimentale, poi con i braccianti romagnoli e quant'altro, fino ai nostri giorni in cui lui scrive anche altri racconti, e che però sono nella dimensione, abbiamo detto, del presente di Eymerich, che proietta nel futuro di Eymerich. Allora, tutto questo perché per dire quanto si è articolato e complesso il lavoro che ha architettato, ha sviluppato, ha portato avanti e ci ha lasciato Valerio Evangelisti, che purtroppo, come sapete, è morto il 18 aprile scorso. Il 18 aprile scorso stavamo iniziando a parlare di questo volume, se non che lui era d'accordo sull'impostazione che avevo proposto, ma poi ho dovuto farlo io da solo perché purtroppo lui è scomparso. Rispetto al lascito che c'è, è un lascito molto forte, perché Valerio Evangelisti ha occupato tantissimi ambiti, si è mosso in tantissimi ambiti della scrittura, della pubblicistica, della saggistica. Ha tenuto anche una rubrica dal 2005 al 2007 su Rolling Stone, in cui parlava della sua musica preferita, che era l'heavy metal, e parlava di album classici dell'heavy metal. Questo per, giusto così, una chicca per dare che lascito c'è. Un lascito problematico. Sto parlando da un punto di vista editoriale e culturale e di lavoro. Un lascito problematico perché bisogna fare una ricognizione attenta di tutta la sua produzione saggistica, perché lui ha scritto articoli per una marea di riviste nazionali e estere. E non c'è un archivio, non c'è nulla. Ma c'è anche un altro problema, che lui spesso ha riscritto i suoi testi. Nel 2019 ho curato per Mondadori i 3 volumi della Titan Edition che hanno raccolto i 13 romanzi del ciclo di Emmerich. Il problema è che ad oggi continuano a circolare, e lì abbiamo lavorato con Valerio Evangelisti per stabilire la versione definitiva. Per intenderci, Nicholas Emmerich Inquisitore, quello del 94, c'erano degli errori dentro, c'erano i personaggi che cambiavano nome. Questa situazione è rimasta anche nella versione successiva, che è stata una modificazione del testo, rivista che escerà nel 2000, poi nel 2004. Abbiamo rimesso tutto a posto in quest'ultima edizione, così come abbiamo rimesso tutto a posto anche rispetto a delle combinazioni, delle cronologiche con gli altri tempi. Però nel frattempo sono uscite anche altre edizioni, per cui c'è un caos notevole in cui è importante mettere mano, è ancora importante lavorare e anche con per appunto lasciare i romanzi di Valerio Evangelisti, che avranno il loro corso, ripubblicarli in maniera dignitosa e rispettosa delle volontà delle volontà di Valerio Evangelisti. Per cedere la parola a Alberto Prunetti, dico solo che il suo libro sulla Working Class Literature mi ha fatto, riportando anche la definizione estesa, Alberto, del profilo Working Class Literature, no? Mi ha fatto pensare sul fatto che Valerio Evangelisti, nel Sol dell'Avvenire, nei romanzi del Risorgimento, parla del proletariato, del sottoproletariato romagnolo soprattutto. In una nota, perché non volevo entrare troppo nel dettaglio, mi sono comunque interrogato sulla possibilità di assimilare questa produzione di Valerio alla Working Class Literature. Però francamente lo trovo difficile, se non in maniera molto estesa, inserire questa produzione di Valerio Evangelisti all'interno della Working Class Literature, perché sì, parla del proletariato e sottoproletariato, affronta le questioni del lavoro, affronta le questioni del socialismo, dà una prospettiva molto diversa rispetto alla lettura mainstream e comune di quel periodo, tu fai tutto un discorso anche sull'uso linguistico, eccetera. Lui rimane volutamente all'interno di una dimensione letteraria, non nel senso alta, ma nel senso della letteratura di genere che dicevo prima. Cioè cercare di costruire storie che affascinino, che colpiscano l'immaginario, più che andare a cercare di fare un discorso realistico e di tipo più, appunto, più realistico, scusate il bisticcio. Quindi insomma io cedo la parola, ponendo anche questo, iniziando a costruire questo dialogo con Alberto, che saluto caramente e che spero poi di rivederci presto, perché da prima del Covid che non ci vediamo di persona. Sì, mi sentite bene innanzitutto? Si sente? Va bene? Ok. Innanzitutto mi scuso, però mi trovo con croniche difficoltà di schiena e non me la sono sentito di peggiorare la situazione viaggiando. Ho preferito questa soluzione, non è il massimo, però ecco, contavo sull'appoggio perlomeno di Redacta e di Alberto per una cosa che risulterà un po' ibrida, ma che può funzionare. E cerco appunto di saltare dall'opera di Valerio al mio libro, cosa che non è così complessa, perché diciamo che gran parte della mia scrittura l'ho fatta in un cantiere che era non solo frequentato, diciamo, che aveva Valerio Evangelisti come principale geometra, perché mi sono avvicinato al mondo dell'editoria nel lavoro militante all'interno di questa che considero una delle migliori riviste che abbiamo avuto in Italia nei primi 2000, e che era appunto Carmilla. E una riflessione che poi io ho elaborato in maniera autonoma, magari intrecciando poi certi sentieri con riflessioni che si facevano soprattutto in Gran Bretagna attorno all'immaginario della classe lavoratrice, però diciamo cose simili venivano fatte in un contesto politico d'opposizione antagonista, già dentro a Carmilla. Il progetto di Valerio era proprio quello di utilizzare, come diceva anche Alberto prima, la paraletteratura per sviluppare un immaginario antagonista e d'opposizione. E non sorprende che la paraletteratura, che è un campo che appunto è stato a lungo sdegnato, magari dagli intellettuali più paludati, più attenti appunto all'idea tipicamente italiana che associa cultura a elite e prestigio. E non è un caso appunto che quel mondo della letteratura di genere poi era un mondo in cui la classe lavoratrice guardava con interesse quando doveva confrontarsi con la tematica della lettura, no? Non solo i cosiddetti gialli, come si chiamano in Italia, ma pensiamo a cosa è stata, per esempio, il romanzo d'appendice sia in Italia che all'estero, in tutta Europa, ma i Penny Dreadful, quei piccoli raccontini che costavano appunto uno spicciolo. Penny e che dovevano spaventare in qualche maniera il lettore, erano avidamente consumati dalla classe, dalla working class britannica. E mi ricordo anche proprio lo sdegno di noti intellettuali socialisti che volevano far leggere opere di intellettuali marxisti, mentre invece la classe lavoratrice comprava i Penny Dreadful, no? Però ecco, bisognerebbe interrogarsi sul fatto che magari era proprio attraverso i Penny Dreadful che si poteva fare magari un discorso, e forse non è un caso che poi, se si va a rivedere l'opera di Marx, molto spesso tanti riferimenti vampireschi per raccontare il capitale poi si ritrovano nella sua opera. Probabilmente sono i passi che risultavano più digeribili al lettore, diciamo, di non illustri natali, ecco. Quindi, detto questo, ecco, con Valerio avevo un rapporto molto molto forte. Io gli passai un mio racconto che poi è diventato un capitolo di un libro, semplicemente perché avevo stima per quello che scriveva come autore, ma e come, diciamo, colonnista di Carmilla nel 2004. Gli passai questo racconto e lui me lo pubblicò su Carmilla e mi disse subito: no, anzi, non devi pubblicarlo, devi entrare in redazione. E Carmilla la facevano allora 4 o 5, per me erano grandi intellettuali, io facevo il pizzaiolo in quel periodo e fui praticamente il primo collaboratore che forse non aveva pubblicato quasi nulla, credo, dentro Carmilla. E nel mio primo racconto, cioè, Valerio mi chiese una foto di me vestito da pizzaiolo, che la scattai per l'occasione, quella sera stessa, e poi la pubblicò su Carmilla, ecco. E era una roba ormai di quasi 20 anni fa, 15 anni fa, forse anche più. E quindi, diciamo, è tutto un percorso. Poi io ho fatto, quando ho pubblicato Amianto, alcuni capitoli di Amianto li avevo già pubblicati su Carmilla. Quindi, diciamo, che il mio percorso di scrittura, in cui io sostanzialmente lentamente, perché non è che io mi sono svegliato di botto e ho detto adesso faccio letteratura working class anche in Italia. È stato un percorso lunghissimo, dove da un lato mi trovavo con le spalle al muro, diciamo, con le case editrici che quando io spiegavo che cosa avevo intenzione di scrivere, mi mandavano risposte tipo abbastanza, diciamo, dry, come dicono gli inglesi, cioè quasi ciniche, dicendo che gli uffici marketing della nostra casa editrice non danno segnali positivi per la storia di un operaio che muore di un cancro, che era appunto la storia di mio babbo, e poi raccontata in amianto, e tutta una serie poi appunto di difficoltà, di risposte che mi arrivavano sul manoscritto, tipo mi dicevano che i miei personaggi erano troppo pieni di rabbia, che non evolvevano, no? Cioè che non trasformavano il mondo, una delle caratteristiche tipiche dei plot di successo sono quelle in cui il lettore vede che il protagonista fa cose, vede gente e trasforma la realtà. Alla fine è una persona migliore, alla fine supera delle difficoltà. È una linea che da Aristotele in poi ha sempre funzionato abbastanza bene e credo vada molto bene in un contesto neoliberista, però il problema delle storie delle persone comuni è che quello che le persone comuni fanno sostanzialmente è l'opposto di trasformare il mondo, almeno la propria azione individuale. Individualmente tu patisci le condizioni che ti determinano. E non, anzi, domani è peggio forse dell'oggi, le sfighe si accumulano e se qualche volta riesci a trasformare qualcosa è grazie all'azione collettiva, non la tua azione individuale. Quindi ci vorrebbero personaggi che muovono le cose in maniera collettiva. E quindi la storia di un personaggio che non trasforma, che non ce la fa, non è, era un'altra, diciamo, un'altra questione che non risultava vincente. E così io nel tempo sono riuscito comunque a scrivere questa trilogia che ho chiamato la trilogia Working Class, però ci ho messo 10 anni, in questi 10 anni ho continuato a fare conti con l'industria editoriale su tanti fronti. Da un lato ho smesso di lavorare dopo 10 anni facendo lavoracci comuni, privi di qualsiasi, diciamo, dimensione culturale. Poi queste dimensioni si sono sovrapposte, cioè magari facevo un po' di pizzeria, un po' di traduzione, e poi alla fine mi sono ritrovato a lavorare negli ultimi 10 anni solo nell'industria editoriale, della cultura, e con tutte le difficoltà, insomma, di stare bene e basta di questa industria. E piano piano l'ho anche un po' testata. Ogni mio libro lo pensavo anche come un test, no? Guardavo le difficoltà, le risposte, i rifiuti, e poi anche le recensioni che mi arrivavano. Nelle recensioni vedevo che c'era questa sindrome dei recensori che anche quando apprezzavano magari Amianto e lo recensivano elogiandolo nei principali quotidiani, poi ritornavano, che ne so, diciamo il ritorno della letteratura industriale, no? Questo filone interessantissimo, gli anni 60, in cui intellettuali, compagni, progressisti, però borghesi raccontavano il mondo della fabbrica e vedevano le macchine e faticavano tantissimo a raccontare le vite degli operai. Quando vedevano gli operai erano sempre maschi bianche alla catena e non vedevano mai, per esempio, le storie delle donne, e insomma c'era tutta una serie di difficoltà. E per far fronte a queste difficoltà, da un lato ho scritto 3 libri, dall'altro ho fatto una cosa forse più importante, che è stata quella di creare una collana editoriale che si chiama Working Class, perché io non riesco a raccontare, non, io non sono bravo, non riesco a raccontare totalmente la dimensione di una cosa così complessa e stratificata come la classe lavoratrice, soprattutto se il concetto di classe tu lo vuoi intersecare con altri concetti come il race, come il genere. Devi cominciare a raccontare storie, per esempio, che ne so, di omosessualità all'interno della classe lavoratrice. Chi l'ha fatto bene è uno scrittore, tanti, come sono tanti, tanti, ci sono tante voci di scrittori queer, working class, che stanno emergendo ultimamente, fanno delle cose che probabilmente io non posso fare perché non conosco bene quella dimensione di oppressione. Quindi sono molto bravo magari a raccontare la situazione di oppressione in cui io tengo i piedi dentro, però per quanto empatia possa riuscire a mettere, mi diventa più difficile, come è difficile probabilmente raccontare cosa significa essere black quando non nessuno ti ha chiamato con la N-word la sera tornando da casa, oppure non, diciamo non, la stessa cosa, fatichi a raccontare gli abusi sessuali se non hai avuto paura a tornare di notte magari in una zona poco illuminata, no? Quindi per tutte queste considerazioni, quello che ho pensato di fare era che più che sforzarmi io di inventarmi dei personaggi con vite, diciamo, diverse dalla mia, potevo creare una serie editoriale, una collana, in cui ospitare opere che esplorassero questi ambiti così diversi dal mio vissuto. E in questa maniera abbiamo pubblicato, per esempio, opere che considero importantissime come Chav di Damon Hunter, che è la storia di un proletario di Nottingham, così diversa dalla mia, che in qualche maniera sono il figlio di una famiglia che un tempo veniva chiamata aristocrazia operaia, cioè una classe lavoratrice, diciamo, dei piani alti, con buoni salari, sindacalizzazione e accesso a, che so, agli, a, a, a perlomeno agli studi. E adesso stiamo facendo uscire un libro che ho appena finito di tradurre, che uscirà a febbraio-marzo, che è molto molto forte, è la storia di una donna, di una madre single inglese, fa i conti con i ricatti del welfare e lavora come sex worker. È un libro veramente potente che mi sta molto a cuore, si chiama Skinty State, i quartieri al verde, non so ancora se sarà il titolo che metteremo nell'opera. Ecco, stiamo facendo il lavoro che l'industria editoriale italiana non vuole fare, che l'industria editoriale italiana da anni pubblica opere working class nascondendo la parola classe, che non è considerata sexy, quindi i libri, anche con opere fondamentali del mainstream, tipo Trainspotting, che è un libro sui figli della working class scozzese, e viene raccontato come un libro sulle subculture giovanili, il degrado e la droga, ecco, banalizzando con etichette comode, no? Come i libri di Anthony Cartwright venivano raccontati romanzi sul calcio, mentre invece raccontano le Midlands deindustrializzate, in cui il calcio ovviamente è un collante di un'identità sociale che va conoscendo, diciamo, una lenta erosione. E potrei continuare con tantissime altre opere, cioè anche ci sono le opere dei cosiddetti transfughi di classe, no? Come i filoni, per lo più quelli francesi, di Didier Ribon, Ritorno a Reims, in cui si racconta cosa vuol dire vivere, appunto, uscire da una classe sociale e faticare a stare in un'altra. Opere che poi, tra l'altro, hanno anche in qualche maniera ai miei occhi qualche rischio, perché chiaramente quando tu racconti cosa significa uscire dalla classe operaia per trovarti dentro la classe, alla classe media intellettuale, poi finisce appunto per coltivare anche il senso di superiorità etica di questa classe, quando invece poi tutta una serie di difficoltà sono assolutamente presenti in tutte le classi sociali in termini di questione di genere. Quindi che ne so, Hunter racconta ad esempio come la sessualità dei bambini, dei ragazzini di classe di middle class era molto più recintata dei lumpen di Nottingham, ad esempio. E anche tutta questa letteratura che adesso va molto bene in Gran Bretagna, di donne working class che raccontano storie, raccontano le proprie ferite, le proprie cicatrici, corre un po' il rischio di diventare una forma di voyeurismo, perché viene letta da lettori middle class e si sentono al sicuro in una zona di comfort, e che leggendo queste storie spesso fanno una sorta di poverty porn, cioè, no? Cioè entrano dentro le storie dei poveri, le guardano con un atteggiamento quasi voyeuristico e poi se ne ritornano al sicuro alle proprie zone confortevoli, ecco. E, alimentando poi l'idea che che gli abusi familiari siano più forti nella classe operaia, quando invece se tu sei una persona di classe operaia adesso in Gran Bretagna devi mettere a nudo Cash Carroway, che ha lavorato come stripper e si spogliava per il proprio pubblico, dice adesso che io faccio la scrittrice devo fare la stessa cosa, cioè devo spogliarmi per poter pubblicare, cioè mi chiedono di nuovo di spogliarmi, solo stavolta la devo fare con la scrittura. E quindi questo rischio, diciamo, del safari nella miseria è un rischio per scritture working class che stanno in qualche maniera cominciando a entrare nel mainstream, come sta succedendo in Gran Bretagna, dove appunto Douglas Stewart ha vinto il Booker Prize, dove negli Stati Uniti è stato pubblicato un'opera, un memoir di una donna delle pulizie, e poi è diventata una serie Netflix che è Made di Stephanie Land, un'altra opera molto molto bella, ma probabilmente la conoscete per aver visto, non so, la serie TV su Netflix, ma quello che vi inviterei a fare è leggere il libro e poi mettere a confronto la serie e il libro, perché poi si vede che tipo di operazioni il mainstream fa per cetometizzare le storie working class. Ad esempio in Made ci sono un paio di passi che sono veramente esemplari, sono sintomatici. A un certo punto, non so se l'avete vista, comunque c'è questa figura di questa signora borghese black, ricca, che fa un po' la stronza all'inizio con la donna delle pulizie, però poi nel nome della sorellanza diventano amiche e le mette addirittura la sua amica avvocato spaccaculi, che riesce a tenere lontano il maschio abusante. E questo succede nella serie Netflix, ma non succede assolutamente nel memoir, immagino quindi neanche nella realtà. L'unico modo in cui la protagonista del memoir riesce a tirarsi fuori da quella situazione diciamo è grazie a due cose: la solidarietà delle donne di classe ordinaria, cioè quelle che vivono accanto a lei, che si fanno carico della bambina quando lei deve andare all'università a studiare, e un residuale sistema di welfare che le permette di fare l'università senza pagare le tasse, perché è donna lavoratrice. E quindi non è una donna ricca, magari connotata, razzializzata, a tirarti fuori da quella situazione, ma è la solidarietà delle persone comuni. E un altro passo interessante è quando c'è la scena di questa, come posso dire, casa sicura per donne vittime di abusi familiari nella serie Netflix, che viene raccontato, è un posto veramente molto bello, colorato, che sembra quasi un asilo, una scuola per l'infanzia, con tutte le facilities per i bambini, con quest'altra signora anziana molto, molto bella, solare, e poi con una musica angelica, e comincia ogni volta che questa signora anziana compare in scena. Ecco, nella realtà, nel memoir perlomeno, che mi immagino sia molto più vicino alla realtà della serie Netflix, la protagonista racconta quella casa rifugio per donne abusate sostanzialmente come una prigione, un carcere, un posto che puzzava di piscio, in cui gli gestori avevano il diritto di entrare nel loro loculino dove lei e la bambina dormivano per prendere un campione dei capelli, per fare un test, perché chiaramente se sei povera c'è l'idea che tu debba essere anche una tossicodipendente. Ecco, quindi è molto diverso dalla serie Netflix. Quindi anche quando una storia working class sfonda il mainstream, poi deve essere in qualche maniera ammorbidita per poter raccontare, per poter essere in qualche maniera ben accolta, ecco, dal lettore di classe media. Ora non voglio rubare troppo tempo, e vorrei avvicinarmi anche alle cose che posso condividere anche poi con le attiviste di Redacta, che so che partecipano stasera. Il mio libro non è solo una riflessione sull'immaginario working class, non è solo una maniera forse un po' bizzarra di fare critica letteraria, da una persona che di critica sa anche poco, è anche una riflessione più sociologica sull'industria editoriale. Ecco, noi abbiamo questa industria editoriale, dove io lavoro da più di 10 anni ormai, che sembra una, non so come definirla, è un'industria che si percepisce molto colta, in cui le persone che lavorano hanno probabilmente l'idea di non hanno l'idea di essere persone privilegiate, ma essere appunto persone brave, colte, che hanno studiato, che amano i libri, e che si sentono forse circondate da una platea di buzzurri che, come si dice, non leggono neanche un libro all'anno. No? Ogni tanto, una volta all'anno, esce questo articolo che a me ricorda un po' quello che esce di continuo sugli imprenditori che non trovano camerieri. No? L'industria editoriale italiana non trova lettori, perché siamo circondati da gentaglia che chiaramente preferisce mangiare fritto e kebab e invece di leggere un bel libro pubblicato da un grande editore italiano. Alberto, io in qualche maniera li capisco, perché ho la sensazione che i libri che mettono nelle librerie parlino a un gruppo molto ristretto di persone, cioè raccontano le esperienze di un gruppo molto ristretto di persone, e che dentro tanta passione. Sì? Mi senti? Sì. Posso interromperti un attimo? Sì, sì. Stai creando il collegamento e la connessione con Samuela di Redacta, e va benissimo, però sì. Io volevo chiederti due cose. Sì. Prima il collegamento lo teniamo bene per Va tra un po'. bene. E quello che volevo chiederti era questo: tu dopo amianto 108 metri nel girone dei bestemmiatori hai raccolto questa tua riflessione teorica Sì. in questo libro. E parlando prima con te, prima di questo incontro, tu sottolineavi che la connessione con Valerio Evangelisti era soprattutto nella letteratura di opposizione. Valerio Evangelisti ha lavorato molto sull'invenzione, no? Sia sui riferimenti storici che sull'invenzione fantastica e forse poco come almeno come romanziere sulla realtà. Invece la tua ricerca a un certo punto sembra quasi voler tornare a un realismo o un neorealismo, cosa che chiarisci subito e bene quando invece scrivi che per avvicinarsi al reale non c'è solo il realismo. E ecco, se ci racconti, se ci dici qualcosa di più su questa tua, la narrativa working class, sulla tua concezione. Hai parlato anche insomma, dell'esperienza inglese, però ecco, qualcosa di più Sì, sulla allora tua. diciamo da un lato c'è effettivamente la storia della letteratura working class nasce, spesso comincia con forme di realismo, realismo sociale, e con il rischio in qualche maniera che questa cosa diventi un po' uno stigma, no? Ossia che le persone di classe operaia debbano raccontare le loro sfighe e gli altri autori invece inventare labirinti di fantasia. È anche vero che quando c'è un autore che magari è un autore modernista, parlo del Novecento, no? Che sperimenta in che maniera avanguardistica le forme, e proprio per questo non viene pensato come un autore working class perché è troppo sperimentale, no? È capitato a alcuni autori britannici degli anni 60. Io purtroppo devo dire questa cosa, cioè che diciamo, sono due cose diverse. Diciamo, l'adesione fra la vicenda personale dell'autore e quella dei propri personaggi, questa distanza nella mia narrativa è molto, molto corta. Cioè, nel senso, nei miei libri, le persone, cioè, di solito c'è una proiezione testuale di me e le persone fanno cose che io ho fatto. La maniera in cui io racconto, però, queste storie. Piano piano diventa sempre più, soprattutto in 108 metri, secondo me diventa sempre più complessa, elaborata e non è una forma per nulla realista. Ecco, amianto l'ho pensato che fosse in qualche maniera leggibile anche per un pensionato, una di quelle persone che non leggono mai libri in Italia, mentre invece 108 metri l'ho pensato in maniera molto molto diversa, anzi con momenti di inserti di weird, quindi con qualcosa anche di paraletteratura che entra. Detto questo, il punto è per me è molto semplice. Io ripenso alla vita che facevo quando facevo il doppio turno in pizzeria e provavo a leggere e provavo anche magari a scrivere qualcosa, ma quando tu fai 8-9 ore su due turni spezzati in un ristorante e torni a casa, non riesci non riesci a inventare castelli e labirinti di fantasia. Tu vai a letto con il rumore delle stoviglie e ti addormenti con il rumore delle stoviglie che cadono dentro alla lavastoviglie. E quindi quando scrivi purtroppo fai il conto con questa cosa qua. Cioè, purtroppo non riesci a prendere quella distanza fra il tuo vissuto che ti permette, e che permette alle persone che hanno un capitale culturale, ma hanno un capitale di tempo libero, perché il tempo purtroppo è denaro, e per scrivere serve anche tempo che sfugge al tempo morto del lavoro. Questa è una gro delle grosse difficoltà di chi è working class e prova a scrivere. E quindi ti ritrovi a raccontare le tue sfighe perché ci sei così tanto dentro e non ne esci. Capisci? Mentre invece se tu vivessi in una situazione di comfort, puoi metter lì, oggi scrivo ma non è che tutti gli scrittori borghesi poi scrivono di Vacanze in Provenza, di Crema Chantilly, magari scrivono, cioè, fanno anche analisi su questioni molto molto profonde. Cioè, io sono cresciuto leggendo soprattutto letteratura borghese, perché quella poi si trovava, no? E quindi ho letto cose bellissime, scritte da persone che avevano vite diverse dalla mia. Però ecco, purtroppo è molto difficile, appunto, prendere distanze dal tuo lavoro se continui a lavorare sempre. Questa è la ragione per cui, in qualche maniera, e non è una questione di mimesi, è che proprio ci stai dentro, cioè nel senso, ci stai così dentro, e che probabilmente poi, se uno riesce a prendere distanza, poi inizia a scrivere anche di altre cose. Va bene, e passiamo la parola a Samuela. Sì. Va bene. Sì. Magari ci dici qualcosa su Redacta. Perbacco, assolutamente. Intanto buonasera a tutti. Come detto, io mi chiamo Samuela Serri, grazie per la presentazione e vorrei innanzitutto ringraziare per essere qui con voi stasera a parlare di temi che insomma ci riguardano molto da vicino. E io stasera appunto parlo a nome di Redacta, però ci tenevo a dire a proposito di narrazioni plurali che Redacta è fatta di molte più persone, molto più valenti di me, fra l'altro, e che spero di rappresentare dignitosamente questa sera. Redacta nasce nel 2019 dall'iniziativa di alcune soci ACTA come un'inchiesta sulle condizioni di lavoro nel settore dell'editoria libraria e negli anni ha promosso una serie di azioni collettive che agissero sui problemi dei lavoratori di questo settore, freelance ma non solo. Scusate, mi sentite bene? Perché mi sembra... Ok, grazie. Freelance ma non solo, problemi come l'isolamento, come la frammentazione, come una bassa remunerazione a fronte di un'intensità di lavoro e di qualifiche invece molto elevate. Credo comunque che molti nel pubblico ci conoscano, quelli che non ci conoscono sono sempre invitati a partecipare alle nostre riunioni che organizziamo mensilmente, direi, a Milano, Bologna, Torino e così via. Io sono arrivata a Redacta dopo qualche anno in cui avevo provato a introdurmi nel settore dell'editoria partendo da una condizione che credo possiamo definire di working class, nel senso che mio padre era un metalmeccanico, lavorava nella vetroresina e tuttavia nella provincia in cui io sono cresciuta quel lavoro duro, quella buona volontà sembrava bastare a mantenerci a galla e anche addirittura a immaginare una vita diversa da quella che aveva fatto lui, che aveva comunque studiato ma poi era dovuto entrare in fabbrica perché bisognava fare la spesa e pagare le bollette. E quando ho cominciato a pensare che avrei potuto lavorare con i libri, invece ho capito abbastanza presto che in assenza di capitale economico o capitale culturale, e io in quel momento non avevo nessuno dei due, il duro lavoro non mi sarebbe bastato. Però d'altra parte non devo averlo capito benissimo o non del tutto, perché ho pensato che avrei potuto acquisire quel capitale culturale per esempio frequentando un master, quei corsi di perfezionamento come ce ne sono tanti, che scambiano appunto agganci e contatti con un capitale economico che in alcuni casi è cospicuo. E qui appunto già cominciano i problemi. Ma in realtà non avevo neanche iniziato a immaginare quali, perché nel master che ho frequentato mi hanno detto tutto, tranne quello che io e i miei compagni avremmo davvero dovuto sapere, e cioè che da quel momento sarebbe iniziata una girandola di stage sottopagati, in alcuni casi addirittura non pagati, o che si sarebbero prolungati con varie escamotage, che avrei aperto partita IVA per fare un lavoro spesso da dipendente pura, entrando in un settore in cui gli editori tendenzialmente ci avrebbero messo l'uno contro l'altro in un continuo gioco al ribasso, che non avrei visto l'aspetto di un vero contratto per molto tempo e che per mantenermi a Milano avrei dovuto accettare molto più lavoro di quanto una persona sana dovrebbe gestire, insomma la conseguenza che lavoravo un minimo 10-12 ore al giorno, sabato e domeniche compresi. In tutto questo però la cosa straordinaria è che la mia situazione non è affatto straordinaria, perché secondo un sondaggio che Redacta ha realizzato fra il 2019 e il 2020 e a cui hanno risposto circa 300 persone, a lavorare nel settore dell'editoria libraria sono soprattutto donne residenti al nord con una formazione, un'educazione piuttosto elevata e che nella maggior parte dei casi lavora senza alcun tipo di contratto né lettera di incarico. La maggior parte dichiara di lavorare fra le 25 e le 55 ore settimanali, ma i loro redditi non rispecchiano questo impegno, perché solo nel 20% dei casi, dopo 6 anni dall'inizio del lavoro, si superano i 25.000 euro lordi. Scusate, abbiamo un bicchiere d'acqua. Invece nella maggior parte dei casi non si arriva addirittura ai 15.000 euro lordi all'anno, è insomma un traguardo veramente per pochi. Se veniamo poi ai tempi di pagamento, la situazione non migliora, perché soltanto nel 30% dei casi l'accordo è per un pagamento che avvenga a 30 giorni dalla data fattura fine mese, e per un'altra bellissima fetta, cioè un 27%, il pagamento arriva a 180 giorni, e comunque sono accordi rispettati solo 2 volte su 3. È evidente, insomma, che in questa situazione sopravvive soltanto chi può permetterselo, chi può permettersi di non essere pagato affatto o di non essere pagato per mesi. E quando dico mesi, intendo veramente mesi. Vi porto questo aneddoto che mi ha raccontato una cara amica e collega di Redacta, per cui una volta, accordandosi con un committente per un lavoro, lui gli ha spiegato molto tranquillamente che il pagamento sarebbe arrivato a 180 giorni dalla data di emissione della fattura, se andava bene e non c'era niente di speciale. Lei si stava accordando per consegnare da lì a qualche settimana un lavoro che, se andava bene, le sarebbe stato pagato addirittura in un'altra stagione dell'anno. Ecco, quando ho capito, diciamo, l'ingiustizia sostanziale di questo sistema, è subentrata la rabbia, ma insieme alla rabbia anche la consapevolezza che l'unica cosa che potevo fare in questo frangente era rivolgermi ai miei compagni, i miei compagni di stage, di partita IVA, che erano spesso come me, erano soli, erano isolati, erano spesso arrabbiati, erano magari anche umertosi. E ho capito però anche un'altra cosa, e cioè che lì poteva cominciare una narrazione diversa, una storia diversa, appunto, che partiva certo da un conflitto, perché senza conflitto non c'è narrazione possibile, ma che appunto trovasse un modo differente di raccontare il settore in cui tutti lavoriamo. Una narrazione che fosse quindi in primo luogo plurale, ed è il motivo per cui in questi anni Redacta ha incontrato sindacati, ha incontrato i lavoratori, come per esempio quelli della fabbrica di Campi Bisenzio, GKN, ha organizzato il ciclo Carta Lotta, proprio qui alla Calusca abbiamo incontrato i lavoratori e le lavoratrici della Città del Libro di Stradella. Loro uscivano da uno sciopero vittorioso, mentre noi eravamo nel pieno dell'azione collettiva contro il saggiatore. Comunque ha cercato di incontrare tutti i lavoratori della filiera, diciamo, dalla logistica alla libreria, per cercare di tenere insieme, appunto, ghostwriter, editor in crisi di nervi, inchiesta e assemblea. Scusate. Allora, grazie mille. Una narrazione, appunto, dicevamo, una narrazione plurale, ma anche una narrazione che accendesse la luce sul settore in cui tutti lavoriamo. Per dirla molto liberamente, parafrasando una frase molto abusata di Joseph Conrad, che mi aiutasse a capire come spiegare a mia madre che quando leggo un libro io sto lavorando, ma anche che diciamo si occupasse di quelli che sono i problemi più urgenti, più scottanti, e quindi muoveva, diciamo, da due esigenze: l'esigenza di essere riconosciuti e visti nella propria esistenza, nella propria importanza lungo tutta la filiera, ma anche quella, appunto, di occuparci di condizioni di lavoro che dovevano essere dignitose. Questo significa essere pagati dignitosamente, ma anche uscire dal sistema, dal meccanismo del lavoro aspirazionale, per cui oggi come oggi molto spesso questo tipo di lavoro finisce per essere un modo per autodefinirsi, se non addirittura un hobby. Quello per cui ci battiamo, quindi, innanzitutto, è una maggiore trasparenza. Una delle proposte, per esempio, è quella di che tutti i collaboratori, che hanno, per tutti i professionisti che hanno collaborato alla creazione di un libro, siano, il loro nome venga inserito nel colophon, come oggi è previsto soltanto per traduttori e illustratori. E nel caso in cui il nome non possa essere inserito, come per esempio nel caso del ghostwriting, dovrebbe essere addirittura prevista una remunerazione aggiuntiva. C'è il caso che in questo modo anche una semplice correzione di bozze possa venire pagata in visibilità? Noi speriamo di no. Certo è che se guardiamo a quello che succede, per esempio, con gli autori, non c'è da essere particolarmente ottimiste, perché quello che succede è che spesso e volentieri non si occupano delle persone che... Quando c'è la banda, dice, per cui è di banda... No, intanto è mio. Vado avanti? Persone che lavorano i libri, che anche loro sono pagati pochissimo per scrivere, ma tendono a non parlare mai di soldi, e non parlare mai di soldi è un modo per mantenere lo status quo. I soldi certamente non sono una livella assoluta, ma sono al momento la livella migliore che abbiamo. Quindi si tratta per noi di parlare di soldi, sempre e comunque. Questo significa parlare di compensi e significa parlare di tempi di pagamento. Per quello che riguarda i compensi, sappiamo molto bene che per un freelance, ma non solo, è molto difficile sapere quanto farsi pagare in editoria, ed è per questo che il tema dei compensi è stato uno dei temi centrali appunto nel sondaggio del 2019 di cui abbiamo appena parlato. E le risposte che abbiamo ricevuto ci hanno consentito di mappare parzialmente l'esistente, ma anche di elaborare uno strumento che ci consentisse di calcolare dei compensi che abbiamo chiamato dignitosi. È uno strumento basato sull'esempio della Low Pay Commission britannica, che tiene conto anche di variabili come il tempo, la velocità di produzione, e che prende come riferimento il salario minimo del CCNL grafici editoriali. Diciamo, per darvi un esempio molto concreto, uscire dall'astratto, secondo con questo strumento un compenso dignitoso per la correzione bozze di una cartella di testo si aggira intorno ai 2 euro lordi, quando sappiamo, credo tutti molto bene, che là fuori si fa fatica arrivare anche a 1 euro. Se appunto per quello che riguarda i compensi sono cifre che magari per qualcuno possono parere nuove, per quello che riguarda i tempi di pagamento ricordiamo che secondo lo statuto del lavoro autonomo i pagamenti dovrebbero avvenire a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, possiamo arrivare a 60 in presenza di un accordo scritto fra le parti, ma è abbastanza inutile dire che nel nostro caso l'accordo spesso è unilaterale, non esplicitato, e questa diffusa illegalità ci sembra abbastanza inaccettabile, ed è per questo che Redacta offre anche un supporto, diciamo, per un'assistenza legale per l'applicazione della legge. E senza dimenticare infine che parlare di soldi significa anche parlare sempre anche di stage, cioè del lavoro gratuito che rende l'accesso a questo settore una specie di far west, dove sopravvive soltanto chi può permettersi di non essere pagato per più tempo. E mi avvio alla conclusione dicendo, insomma, per arrivare invece a chi in questo settore in qualche modo riesce a sopravvivere, mi piaceva rivolgere una piccola osservazione a un passo del volume di Alberto Prunetti, dove si avanza l'ipotesi per cui questo nuovo interesse nei confronti delle storie working class derivi da una progressiva proletarizzazione della classe editoriale, diciamo. Io non sottovaluterei il peso del mercato, ma ovviamente è un cane che si morde la coda, perché se queste storie non arrivano al pubblico, il pubblico non può apprezzare queste storie, questo è evidente. Ma a me piacerebbe anche leggere la situazione come un momento in cui abbiamo deciso di accettare, riconoscere, parlare dei nostri problemi, anche delle nostre origini, nel mio caso, perché è vero che spesso la sensazione è quella di essere l'unica persona working class nella stanza, però io credo che sia altrettanto vero che spesso nella nostra stessa stanza ci sono persone che sono esattamente come noi e hanno soltanto bisogno di una parola, un gesto o anche di un esempio per smettere di vergognarsi e unirsi alla lotta. Grazie. Volevo dare un'informazione di servizio, se posso. Alla mia destra c'è Marta, per chi volesse rimanere informato su tutte le novità e attività. Lei sarà felicissima di raccogliere le vostre mail. Grazie. Possiamo sentire se c'è qualche intervento, qualche domanda. Altrimenti, Alberto, se vuoi aggiungere qualcosa, sia Alberto Sebastiani. Ma vediamo prima se c'è qualche domanda. Mi dispiace tantissimo che ho avuto un buco proprio mentre parlava Redacta e Samuela, giusto? Samuela? E mi dispiace perché mi sono perso, era interessantissimo veramente, quindi spero che ci sia... Non so se avete registrato, se c'è la possibilità poi di averlo. Benissimo, benissimo, quindi magari dopo me lo ricerco e colmo il buco. Ok. Io condivido le battaglie di Redacta, possiamo definire un'associazione parasindacale, no? nell'ambito del lavoro culturale, però mi chiedevo anche se queste condizioni di lavoro, se queste retribuzioni così basse non siano anche dovute a dei fattori oggettivi, cioè non semplicemente a un'avidità di denaro degli editori, ma anche proprio una ristrettezza oggettiva del mercato editoriale, cioè quelli che leggono obiettivamente sono sempre meno. Se effettivamente metà degli italiani non leggono neanche un libro l'anno e i lettori forti sono quelli che ne leggono 10 l'anno e sono sempre meno anche quelli, effettivamente cosa si può pretendere lavorando in un ambito del genere? So che è una domanda dura, magari anche, non so, fuori luogo, però volevo chiederti anche questo, cosa ne pensi? Io ti posso dare la mia lettura della situazione, però chiaramente appunto c'è una vasta delegazione di redacta nel pubblico che, come dire, a cui potete rivolgere le vostre domande. Sicuramente sì, cioè la situazione è, cioè, per certi versi drammatica, voglio dire, gli aumenti, la carta, sappiamo tutti tutto. D'altra parte questa è un'industria, quindi se il margine non ci fosse non andrebbe avanti, questa è la mia personale. E in ogni caso, voglio dire, non mi sembra, cioè, siamo sicuri di voler mantenere, come dire, lo status quo su questa cosa? Cioè, ci sta bene che questa sia un'industria basata sullo sfruttamento dei lavoratori, perché è un po' di questo che stiamo parlando. Quindi questa però è la mia personale lettura. Che... il punto, secondo me, è che se non fosse basata sullo sfruttamento, la torta è così ridotta che se tutti fossero pagati equamente sarebbero comunque pagati molto poco. Cioè, il punto è che la torta è così piccola che basta a malapena per dare un pseudo stipendio all'editor e pagare a 180 giorni tutti gli altri. Cosa ne pensate? Volevo porre anche questo tema sulla scia di Raffaele Ventura. Sostenevo lo stesso. Allora, anzitutto io e noi come redatta non dobbiamo tenere insieme i conti economici delle case editrici. Questo è il primo discorso da fare. In particolar modo l'editoria è comunque il, cioè, a livello culturale è il primo mercato in questo paese, quindi i soldi da qualche parte ci sono, e quindi noi lavoratori, esattamente come la distribuzione, come le royalties degli autori, come qualunque altro costo, quello dei dipendenti, dobbiamo essere considerati allo stesso modo. Poi per quanto riguarda i dipendenti, gli stipendi dei dipendenti sono discorsi complicati da fare, che dipendono da tanti fattori. Abbiamo parlato di editor. Sì, alcuni editor sono esterni, cioè quelli che decidono le collane delle case editrici anche più importanti, anche quelle considerate grandi case editrici, sono comunque dei freelance, quindi non lo so se anche loro devono essere... certo. No, persino loro. Per cui, insomma... sì, bisognerebbe... Posso aggiungere una cosa se... Avete finito? Sì. Vai. Ora, scusate, credo sia stata disabilitata, io non vi vedo più, ma prima non perdevo la connessione, quindi fatico a capire chi sta parlando. Ecco. Ti però c'è bene. Con il video che io che perdo banda e quindi esco. Quindi è meglio se mi togliete il video. Ecco, risponderei anche, aggiungerei questo. Da un lato, come dicevo io, sì, c'è questo problema dell'industria, in Italia si dice sia Giappone, ma io lo ponevo anche in un altro modo. Forse stiamo cercando di vendere libri a una nicchia molto stretta di persone, forse cioè negli anni 60 e 70, è vero che essere working class a volte può voler dire avere una casa dove non ci sono libri, ma in realtà era vero anche tantissime persone non avevano libri, non si potevano comprare i libri, ma li prendevano in biblioteca e leggevano. C'erano le case editrici, facevano le collane economiche di tascabili proprio per intercettare lettori che avevano minori risorse economiche e pubblicavano libri che poi venivano letti anche da queste persone. Quindi dobbiamo anche chiederci in che direzione forse va l'industria editoriale. Vorrei fare un esempio di un panorama migliore del nostro, ma che c'è molto vicino, l'editoria francese. In Francia un traduttore è pagato grosso modo il doppio di un traduttore italiano, e il prezzo dei libri francesi nei tascabili è anche la metà. Cioè, insomma, da qualche parte qualcuno si mette in tasca un pezzetto della torta. Questo dobbiamo rifletterlo. Poi certo si può anche dire che l'industria del libro francese è molto sostenuta a livello statale con il Centro Nazionale del Libro che hanno loro, però appunto da noi è diventata una vergogna in seguito appunto a tutte le logiche neoliberiste pensare che si possa sostenere la cultura, cosa che invece in Francia in parte si continua a fare. Quindi penso che in realtà l'industria editoriale muove profitti. A volte c'è anche proprio una riflessione sul catalogo, perché poi ci sono opere, adesso si fanno magari opere anche atroci, no? C'è stata polemica sui libri dei magari degli youtuber, però io ti direi, va anche bene fare un libro sugli youtuber se poi riesci a pubblicare quattro autori magari di cui potresti avere una tiratura limitatissima. La realtà è che anche le grandi case editrici guardano moltissimo poco al catalogo e moltissimo al fatturato, e che quando ogni volta che c'è questa con la narrazione del siamo in crisi, cioè io l'ho sentita benissimo per giustificare in un altro ambito, nell'agroalimentare, lo schiavismo dei lavoratori di origine africana nell'industria del pomodoro in meridione. Probabilmente vale anche per il latte nella pianura padana, cioè con la crisi si giustificano le peggio forme di sfruttamento, ecco. È possibile, cioè, se queste persone non sono capaci di amministrare e far funzionare un'industria che comunque produce tanti profitti, e possono farlo solo comprimendo i salari dei lavoratori, che è quello che continuano a fare da anni, e lo fanno poi esternalizzando, anche quelle sono scelte, no? Tutti i servizi editoriali ormai vengono sempre più esternalizzati, e più esternalizzi meno ambiti ci sono, più si comprimono i salari, no? Tu hai tre possibilità per far fare l'editing al tuo libro e accetti quello che è pagato di meno, quello che paga di meno a sua volta pagherà i suoi collaboratori molto meno, così anche la qualità, diciamo, del prodotto va continuamente a ribasso, perché è una specie di asta a ribasso quello che viene fatta in questo modo, ecco. Quindi la riflessione penso vada fatta. L'industria editoriale sta facendo le stesse cose che si fanno in altri ambiti. Quello a me dà fastidio è che appunto si viene percepita come un'industria di persone colte che hanno buon gusto, ecco. Invece è una realtà che ha al suo interno anche margini di oppressione molto molto forti. Poi pensiamo appunto alla working class dell'industria del libro, e non parlo neanche adesso di chi fa il traduttore, il correttore di bozze come noi, ma a chi fa i facchini e lavora nella logistica del libro, e a chi li stampa i libri come è successo nel caso di Grafica Veneta, insomma. Quindi dobbiamo assolutamente cominciare proprio queste contraddizioni, a batterci il ferro finché è caldo, e a farle tenere ben presente, perché se uno pensa all'industria del libro e la vede come si presenta nei vari saloni, nei festival di letteratura, nei vari festival di filosofia, dell'economia, tutte le cose che si fanno e che fanno anche le case editrici con cui io stesso collaboro, quando vai lì vedi delle persone vestite di lino che si muovono elegantemente fra uno stand e un altro, e con il loro shopper, però la realtà è fatta di sangue, ma anche di sangue a volte, insomma, di sudore, di persone che sono totalmente invisibili e che andrebbero perlomeno invitate, cioè nel senso, sarebbe bello se in questi eventi la voce dei facchini o dei cingalesi che stampano i libri fosse in qualche maniera ascoltata, così forse ci sarebbe un momento veramente di rappresentazione della classe lavoratrice dentro a quest'industria così, così nobile. Stacco e ripasso la palla a Cucchetta. Ci sono altri interventi, domande? Non necessariamente sul tema importantissimo di cui stiamo parlando, ma anche più specifico sui due libri. Alberto, Sebastiani, tu volevi aggiungere qualcosa sia rispetto alla... No, voglio dire... Rispetto a quello che hai detto adesso Prunetti, mantenendo il tema che è quello di cui stiamo parlando, c'è da considerare che lei diceva giustamente tre cose, ha parlato di capitale economico, capitale culturale e c'è il capitale sociale, ricorda Bourdieu, che è quello più rilevante quando c'è un'industria, come ha detto Alberto, nobile. Il sistema di conoscenze e di relazioni è fondamentale, i master vendono relazioni, però sappiamo poi come funziona uno sistema gerarchico delle relazioni, nepotistico e familiare. Sappiamo benissimo che quando lei diceva giustamente il sistema la rivendicazione economica è il punto di partenza per una discussione rispetto a chi vuole che il sistema resti così, il sistema resti così, uso volutamente questa parola perché non è semplicemente rapporto datore di lavoro e dipendente. Il problema è una struttura che non funziona più, un sistema di distribuzione, un sistema di promozione, un sistema di vendita che non sta in piedi, che si autodistrugge perché quella torta se la tirano in faccia tutti quanti. Il discorso è semplicemente questo, che se un editore deve produrre X alla N libri al secondo per soddisfare le richieste di una distribuzione che poi ti rimanda indietro il libro in tempi che neanche il miglior velocista della storia delle Olimpiadi riesce a fare, e c'è questo tuo libro ha un ciclo di vita che voglio dire ma neanche la rosa, ok? Cioè, nel senso, neanche un giorno di vita hai all'interno della libreria, e anche qua c'è tutto un sistema di spazi, cioè è sistematica la questione, quella torta di fatto è saltata, cioè il problema è di iniziare a dire questo, quella torta è saltata, ma non vuol dire che chi lavora non deve fare le richieste. Il discorso è che la richiesta del lavoratore deve mettere in luce che quella torta è saltata, e che non è vuol dire che non c'è la torta, perché in tasca se ne sono messe tante di quella torta lì. Questo qua è la questione che tutti sanno, questo qua è il segreto di Pulcinella, perché si parla di torta che si riduce, non è che la torta si riduce, la torta c'è, che è scomparsa, l'ha messa via, e intanto continua ad alimentare una pasticceria senza dolci. Però, rispetto ad altre torte, per esempio, se uno sceneggiatore pagato di più rispetto sono altri discorsi, quelli un po' andare proprio in giro in un'altra direzione. Cioè, volevo dire, se uno sceneggiatore, ad esempio, è pagato di più rispetto a uno scrittore, ma questo non da oggi, già Flaiano lamentava di dover scrivere per la televisione quando la sua vera passione era la scrittura di libri o comunque la scrittura giornalistica, perché era la televisione che lo pagava. Ma perché la televisione lo pagava di più? Perché molte più persone guardano la televisione rispetto a quelle che leggono libri da sempre. Quindi c'è anche un problema proprio oggettivo di dimensione della torta e non solo di come la torta viene distribuita. E temo che sia un problema irreversibile, perché per varie questioni psicologiche, di soglia dell'attenzione che sta crollando per via dei social media, eccetera, i lettori saranno sempre meno col passare degli anni, temo. È proprio il medium libro che è in crisi, secondo me. E temo che sia una crisi irrevocabile, irreversibile. Puoi venire, altrimenti non sento. Anche se no Alberto non sente. No, ma è una cosa anche. Sì, no, ma certo, scusatemi, mi metto. No, non fate stare in piedi. No, allora, prima di tutto, secondo me, riguardo la torta è piccola, hai fatto la stessa obiezione di prima, e penso che appunto quello che ha detto Giulia, che noi non dobbiamo occuparci degli editori. Secondo me un altro punto è che ci viene molto poco in mente che gli editori sono imprenditori. L'imprenditore che piange miseria c'è sempre stato, anche quando ci sarà stato Flaiano. Poi, sullo sceneggiatore magari una persona che con una professionalità in campi più ricchi, ma deve scontare altro tipo di cose, l'intermittenza maggiore, nel senso ci sono un altro tipo di dinamiche, e soprattutto non si fanno le lotte dentro un settore sperando di guadagnare quanto uno sceneggiatore, a parte che come redacta, persone dentro, persone fuori, abbiamo visto che delle volte che sono stati chiesti più soldi poi sono stati dati, quindi i soldi c'erano. Cioè, nel senso, semplicemente questa torta, appunto, qualcuno se l'ha in tasca e poi dice siamo dei poverini, non abbiamo di che pagare. Altra cosa, se uno è un imprenditore e non crea lavoro di qualità, io non vedo perché debba esistere. Questo personalmente, cioè, nel senso, non è il redatto che parla, però siamo pieni di editori, siamo pieni di case editrici che devono fare, non so, i giri di amicizia tra cugini, vari grafici di famiglia, e se non riescono a fare lavoro di qualità possono anche fare un altro lavoro, per quanto mi riguarda. Poi se qualcuno ha delle idee diverse, ovviamente ben accetto, però ecco, lo sceneggiatore sì, sicuramente, ok, guadagna di più, non mi pare il punto. Cioè, e soprattutto, quanti miliardi fa l'editoria all'anno? 3 e un po', quanti erano? Tanti. Quindi boh, qualcuno appunto li vede i soldi. No, i top player, che sono pochi, sì, cioè, nel senso, i sceneggiatori che si sono uniti in Writers Guild Italia, no, sono persone che stanno cercando di affermare un contratto tipo per farsi pagare il lavoro che fanno, cioè col diritto d'autore, le royalties, quindi non se la passano così bene. Anche persone con cui abbiamo parlato che lavorano per Netflix ci hanno parlato di un appiattimento delle tariffe di Netflix quando è entrata nel mercato italiano, cioè non ha fatto... Sì. Allora, questo qua se posso riportare l'acqua al mio mulino, al mio territorio, che è quello dell'analisi delle narrazioni, per intenderci, cioè linguistica, stilistica, retorica, come contenuti, immaginari, eccetera. Ecco, la torta è un cliché della narrazione mainstream, ok? La narrazione mainstream ti racconta, c'è una torta, questa torta si rimpicciolisce, quindi non ce n'è per tutti. C'era un bellissimo meme che era uscito tempo fa. C'è il padrone, tu e un immigrato, 13 biscotti, ne prende 12 il padrone e poi ti dice guarda che te lo frega l'immigrato. E in questa narrazione per me c'è tutto, molto più di tanti discorsi, c'è proprio già la situazione. La torta è un cliché della narrativa, la torta piccola è lo stereotipo della narrazione, la narrazione unica è così, non ce ne sono i soldi, non si può fare. E allora lavorare sull'immaginario vuol dire, prima di tutto, non stiamo parlando di una torta. E iniziamo a parlare di qualcos'altro. E prendiamo allora i biscotti, li mettiamo solo alimentare. I biscotti funzionano così, ce n'è 12, ce n'è 13. 12 le prende lui, uno te lo lascia e dice attenta che te le frega l'altro. E allora questo è un altro tipo di narrazione, fa vedere cose in maniera un po' diversa. I biscotti ci sono. E questa volta non è una torta che può pensare una mignon o cose del genere. No, no, qua c'è un numero preciso. Ed ecco l'idea, che le questioni che dicevo prima, su cui insisteva Valerio Evangelisti, sulla questione di narrare altre storie costruendo un immaginario. Perché costruendo un immaginario diventa molto più efficace far ragionare in maniera diversa rispetto a ripetere dei cliché che diventano stereotipi che alla fine altro non sono che balle. E allora lì veramente, quando si dice è una storia, è solo una storia, sì, quella è una sola storia, però possono raccontare storie diverse. E la storia diversa inizia a essere costruita quando si pensa a una dimensione diversa, quando si inizia a costruire una narrazione diversa. Non sto parlando di narrazione come storytelling, attenzione. Non sto parlando di narrazione come storytelling, questa è un'altra cosa. Questo è costruire un universo narrativo. E costruire una dimensione nella quale, attraverso l'uso degli archetipi, si costruisce un orizzonte completamente diverso. E si può costruire una critica dell'attualità, denunciando quanto possa essere ridicola il cliché della torta piccola, ok? È proprio questo l'essenza del narrare le cose dell'immaginario. Scusate se ho ricondotto la questione al mio mulino, ho portato il mio mulino, ma mi sembrava che la questione fosse... No, no, no, no, no, no, no, no, no, non è una questione... No, io, guarda, cioè... storytelling e invece costruire l'immaginario, perché si capisce il volo, ma mi interesserebbe. Quanto tempo abbiamo? Potrebbe diventare molto... In sintesi, quando noi parliamo di storytelling parliamo di una costruzione narrativa e abbiamo imparato a concepire storytelling per promuovere qualcosa. Siamo all'interno di una dimensione più di vestire una situazione, ok? Raccontare un fenomeno. Storytelling in Italia è stato usato moltissimo nell'ambito della promozione. Abbiamo esempi in testa, esempi orrendi che hanno usato il concetto di storytelling per promuovere cose improponibili, ammantare eccetera. Costruzione invece dell'universo narrativo non è semplicemente una narrazione, in questo caso io sto semantizzando queste due parole in maniera che alcuni non condividerebbero, okay? Perché storytelling poi in sé vuol dire costruire una narrazione, però l'uso ha fatto sì che lo storytelling abbia costruito una narrazione funzionale al marketing, per intenderci. In qualsiasi ambito, il marketing non è solo economia, il marketing è anche politico. Si discute di marketing politico dagli anni 60, c'è una pubblicazione in Italia, quindi non stiamo parlando di qualcosa che è nuovo. Costruire un universo narrativo all'interno di un discorso letterario è un'altra cosa. Nel senso che, per farmi un esempio concreto, se io devo costruire a tavolino un libro che vada a incontrare il gusto del momento, ci sono editor bravissimi, scrittori bravissimi, possono farlo in 5 minuti, avere il bestseller la settimana dopo e poi tornare a casa. Ok? C'è piena, la storia è piena di bestseller che nessuno ricorda più. Ok? Perché? Perché non hanno inciso minimamente l'immaginario. Attuare un lavoro letterario vuol dire avere la forza di costruire con un universo narrativo, che non vuol dire abbellire qualcosa, non è una questione del bello stile, non è il bellettrismo, ok? È proprio la forza di incidere l'intero immaginario. Valerio Evangelisti, in un saggio che secondo me è molto bello, ragionava di Salgari, ok? Oggi non è difficile che i ragazzi leggano Salgari, perché se lo leggiamo ce lo facciamo con una lingua molto distante dalla nostra, ok? Però chi ha almeno la mia età, e qua siamo in pochi, diciamo che tutti hanno in mente Sandokan che combatte contro la tigre, ok? Tutti ce l'abbiamo ancora in mente. Perché? Perché Salgari lavorava assolutamente attingendo della dimensione della fantasia, degli archetipi, dei combattimenti, eccetera, costruendo mondi, non replicandoli. È una cosa ben diversa. Io faccio letteratura quando riesco a costruire questi universi narrativi, che diventano abitabili per le persone, perché non perché semplicemente si riconoscono, ma perché riconoscono il mondo in cui vivono e riconoscono la maniera di una maniera di muoversi in quel mondo e lo vedono su una luce diversa. Riconoscono qualcosa d'altro. Ecco, chiedo scusa se ho semplificato la questione, ma spero di non averla banalizzata eccessivamente, però diciamo che un percorso di questo tipo è rilevante per quando uno vuole fare un discorso di letterario, narrativo, che incida nell'immaginario. Almeno questa è la lettura che vi offro in questo momento, insomma. Ha dei problemi di connessione, vediamo adesso, sta riprovando. Insomma, Alberto, hai problemi alla schiena, problemi di connessione, dai, cioè, te la tiri, questa è la verità, dai, adesso lo diciamo. Aspettiamo un attimo, ci sono altri interventi. Prego. Tanto Alberto ci mette ancora un po' a fare l'aperitivo, sai? Sì, allora, io ho una storia simile alla tua, nel senso anch'io vengo da famiglia operaia, anch'io mi sono fatto un po' abbagliare dalla questione dei master, dell'editoria, ho fatto la mia breve esperienza di stage poco pagato, a differenza tua e di tanti altri, non ho retto, dopo sei mesi, ho deciso che stare a essere pagati poco, a avere a che fare con un contesto che era veramente il peggiore in cui si potesse capitare, era un'agenzia importante di Milano. Comunque, ho retto poco, ora faccio l'insegnante precario, adesso ho preso quell'altra strada. Però questo giusto per arrivare poi al concetto. Ecco, sulla questione del legame tra il mercato, a chi le storie dell'editoria vanno poi a parlare, perché questa fetta è così stretta. Ecco, io mi ricordo, sentito nelle lezioni di questo master strapagato, persona di cui faccio nome ai vertici dell'editoria italiana negli anni passati, che si vantava apertamente davanti a noi dire: l'editoria, noi l'editoria, noi ci reggiamo sulle insegnanti di sinistra, noi facciamo libri per le insegnanti di sinistra, e altre espressioni del genere, come al sud non si legge, cioè non ci sono le librerie perché non si legge e non viceversa, oppure altre cose come dobbiamo separare il valore materiale dal valore simbolico, quindi i libri devono costare di più perché noi li facciamo pagare in base a quanto ci costa produrli e non in quanto valgono. Chi compra il libro di Ken Follett a 21 euro lo compra anche a 27. Questi discorsi che ho sentito da gente che appunto viene dall'editoria, da quel mondo lì, l'ha fatto, l'ha formato. Ecco, poi quando ci chiediamo... esatto. Sì. E quando poi appunto ci chiediamo perché il mercato si restringe, perché le persone non trovano delle storie in cui riconoscersi, per tornare un po' al discorso che faceva Brunetti prima, forse perché c'è anche qualcosa che non va in partenza, cioè per chi lo facciamo questo lavoro, cioè per chi lo fate, io adesso ho chiuso, però... per chi è che si fa? Perché dobbiamo, dobbiamo porci questo problema, dobbiamo porci per cosa stiamo lavorando, perché dovrei stare a pensare a questo tipo di ragionamento, a fare io ho il mio, so che la mia fetta è quella, la fetta che compra i libri è quella, io investo su quella, sto lì, batto il chiodo solo lì perché da lì so che ricaverò i miei profitti, mi specializzo su quello, tutto il resto non mi interessa. Ecco, quando ho capito tutto questo ho capito che non che c'era che dovevo fare altro nella vita. Ecco, la dico molto così, in modo molto schietto, però è quello poi, diciamo, la riflessione a cui sono arrivato. Finito l'aperitivo, Alberto. Alberto, hai finito l'aperitivo? Dov'è? No, non vuol dire che è scomparso di nuovo. Alberto? Almeno la voce. E niente, ho ordinato un altro spritz. Ciao Alberto. Ora ci sono. Purtroppo ho perso un pezzo grosso del dibattito, vengo scollegato e mi ricollego a fatica. Riassunto delle puntate precedenti, si era arrivati a distinguere tra storytelling per ammantare tutte le balle che si raccontano, insomma. Adesso esplode. No, quindi sì, non... Insomma, giusto per replicare un attimo, ovviamente una decisione rispettabile è la tua, come tutte, penso che tutti ci abbiamo pensato almeno una volta nel corso, io perlomeno diverse volte nel corso della mia carriera, e niente, mi viene da dire semplicemente che quello che ti hanno detto sì, chiaramente è un modo di fare editoria, forse non vincentissimo visto dove siamo arrivati, e che magari si possono immaginare altri modi di farlo, ecco, non penso che questi altri modi debbano essere necessariamente non sostenibili economicamente, certo ci vuole uno sforzo di immaginazione, ma siamo qui per questo, quindi non so se qualcuno vuole replicare, dire qualcosa. Non lo sento. Ci sei? Adesso ci senti? No. Io non sento bene, purtroppo. Alberto... Il dibattito... Sì, è molto difficile seguire il dibattito perché mi arrivano molte voci insieme e che percepisco quasi come un unico rumore di fondo. mentre sento meglio, diciamo, forse sono microfonati i relatori e dal pubblico mi arriva una specie di rumore, ecco. Ecco, adesso mi senti? Sì. Ecco, ci sono stati una serie di interventi molto interessanti, il dibattito è molto interessante ed è verte sui problemi del lavoro nell'editoria, soprattutto. E io credo, per tornare anche ai nostri libri, che se ne parliamo oggi qui è anche merito di queste scritture, di quelle che insomma tu stesso hai definito narrativa di opposizione, sia di Valerio che la tua, insomma, e credo che sia anche questo appuntamento importante, ecco, proprio per questo motivo. Se vuoi aggiungere qualcosa tu, sì, se no, non ecco, ci sono altri interventi, possiamo anche salutarci, insomma. Io chiuderei da parte mia dicendo che, meno male, quello che vorrei dire è che quando, ecco, provo a inserire questa riflessione sulla letteratura working class, che è più consolidata ovviamente in ambito anglofono, non è per lanciare un nuovo genere, ma è anche per mettere in discussione l'industria editoriale, che non considera la propria, diciamo, la provenienza di classe come un fattore determinante nella logica dei manoscritti che si pubblicano. Quindi non si tratta solo di buttare una vernice di realismo e parlare di storie di sfigati, si tratta di mettere in discussione l'industria editoriale, la ragione per cui secondo me non si pubblicano bene queste storie, non si incorniciano bene, quando si traducono si ammorbidiscono, proprio perché molto spesso manca una riflessione sul background di classe delle persone che lavorano dentro a questa industria editoriale, e tante altre persone che hanno un background diverso e che per fortuna esistono, diciamo, non sono incoraggiate a tirar fuori la propria origine sociale in un contesto in cui appunto questa non è in qualche nessun modo considerata smart, ecco. Quindi per me non si tratta appunto di lanciare una nuova wave letteraria, anche perché insomma penso che muoverei pochino, quanto di aprire un dibattito più complesso all'interno dell'industria editoriale. La mia sensazione è che in realtà l'industria se ne tiene abbastanza lontana, cioè non fa di tutto per non mettersi discussione, ecco, sarebbe invece il caso che ci fosse. Da altre parti si fa, adesso è uscito l'ultimo numero del Bookseller. The Bookseller è un giornale molto mainstream, molto patinato, molto costoso, che si interroga su questioni dell'industria editoriale britannica, e insomma, in qualche maniera adesso nell'ultimo numero è uscito uno speciale, io ancora non l'ho visto, ne conosco un po' a grandi linee i contenuti. E sulla che non è sulla letteratura working class intesa come appunto come filone letterario, che pure esiste, ma proprio sulla presenza delle persone provenienti dall'ambito della classe sociale meno privilegiata all'interno di questa industria. Già in passato c'era stato, per esempio, forse addirittura due, ma almeno uno nel 2016, una sorta di censimento che cercava di mappare l'origine sociale dei lavoratori dell'industria del libro in Gran Bretagna. Ecco, questo tipo di riflessioni da noi per ora mancano, però secondo me sarebbero una cosa assolutamente da fare. Quindi non solo, per esempio, sono molto interessanti questi tentativi di mappatura che Redacta ha fatto su questioni salariali, no? Però chiaramente siamo in un ambito in cui è molto semplice essere working poor, però è diverso se tu sei un working poor ma hai alle spalle appunto una famiglia che ti può sostenere, e se sei un working poor che viene da una famiglia che non ti può sostenere mentre fai questo tipo di lavori. Quindi anche l'elemento dell'origine delle stazioni sociali andrebbe inserito in future inchieste all'interno dell'industria del libro, secondo me. Però ecco, poi al di là di questo non dobbiamo essere solo noi a inchiestare, ma ci vorrebbe un momento in cui da parte dei grandi case editrici ci fosse un momento di riflessione appunto su a livello proprio industriale, su cosa è, chi ci lavora, quanto pagano e così via, cosa che invece per ora è abbastanza poco, diciamo, ipotizzabile. Ecco, tutto qua. Mi sentite? Possiamo concludere in questa maniera. Leggo una frase del tuo libro. Ok. Che come chiusura potrebbe anche sembrare un po' retorica, però io la sento molto vera e quindi mi pare ci stia bene. Tu dici: è working class la scrittura che ruota attorno al tema del lavoro salariato o domestico e di una accurata, ma non necessariamente realistica, rappresentazione della vita working class, della sua cultura e resistenza al potere, scritta dall'interno, meglio da chi vuole, da chi non vuole uscire dalla miseria individualmente, lasciando gli altri indietro, a salvarsi il culo da soli. Vogliamo combattere la miseria e lo sfruttamento e sortirne tutti insieme, che è la politica, contro il privilegio che è sortirne da soli. Grazie a tutti. Grazie, ciao.